Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare folle d'amore, vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. D'amore, vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire. Perché son solo a ricordare e vorrei sentirti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Ascolterai accanto a te, mi troverai, vedrai lo sguardo che per me parlò. Ascolterai accanto a te, mi rivedrai e troverai un po' di me. Yeah. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Una volta vorrei non sbagliare, ma stavolta non importa, per te spenderei la mia vita in cambio di niente. Io ti darò di più, io ti darò di più di tutto quello che avrò da te. Anche se tu mi amerai come non hai amato mai, io ti darò e tu puoi anche non credermi, ma fa niente, no, no, non fa niente, che vuoi che mi importi un tuo dubbio se resti con me. Io ti darò di più, io ti darò di più di tutto quello che avrò da te. Anche se tu mi amerai come non hai amato mai, io ti darò di più, molto di più. Di panne, ma che passi se ti voltassi ad ogni singolo. Ma tu segui per la strada un lungo samba che si snoda ovunque vada, destando un coro di oh, se per lui ti fermassi. Oh, se per lui ti voltassi, se la sua voce ascoltassi, ma per te d'importante non c'è nient'altro di fuori di te. Basterebbe ti voltassi, ragazza di pane, ma che passi, ma non consideri mai nient'altro che te. Oh, se per lui ti fermassi, oh, se per lui ti voltassi, se sua voce ascoltassi, ma per me l'importante non c'è nient'altro di fuori di te. Basterebbe ti voltassi, ragazza di pane, ma che passi, ma non consideri mai nient'altro che te, nient'altro che te. serenata per sospira d'amore chiana chiana, parola dolce per innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana e te non posso più campare. Una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce che sta serenata, avvocatoia s'accosta più vicina ed uda strigne a me più appassionato con una chitarra in un felice la voce con te vicina canto e so felice amore non posso più scordare me te. La la la la la la la la la la voglio bene, tanto, tanto bene. Lontane te non posso più campare. Una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce che sta serenata. Avvocatoia s'accosta più vicina e tu da strigne a me più appassionata con una chitarra in un felice la voce con te vicina canto e so felice amore non posso che scordare a me te. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare tra i biondi capelli, quella nube d'oro carezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato e l'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di mare perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi tufferò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato l'innamorata va sussurrando. Sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato e l'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Questa piccolissima serenata Radio AQP con música

lasceremo mai. Attenderò fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. E dimmi quando tu verrai, dimmi quando e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. La la la. desiderio che non mi lascia più. Freme la vita mia vicino a te. Mi scordo il mondo e tu lo sai perché. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora nei baci miei che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Solo in quest'ora vive un'eternità. Fammi sognare tutto, dimentica. Dammi l'incanto che non ebbe ancora, il desiderio che tormenta il cuore. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora nei baci miei che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Da una lacrima sul viso, ho capito molte cose. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Da uno sguardo ed un sorriso ho capito il tuo segreto, che sei stata innamorata di me. Ed ancora non lo sai. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi mai come me. Non trovavi sul viso, è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Sorriso, ho capito il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora non sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu,